E allora, dopo aver sentito varie città in questa mattina in giro per l'Italia, dopo aver avuto le buone notizie che sono arrivate da Piazzale Glorio, dall'udienza che appunto, come ci raccontava qualche minuto fa l'avvocato dei due ragazzi arrestati ieri, il giudice ha annunciato il rilascio dei ragazzi senza nessuna misura cautelare, siamo finalmente in collegamento con gli studenti universitari di Roma che in questo momento sono in corteo su Via del Corso. Pronto, ci sentite? Sì, vi sento. Allora, se ci vuoi raccontare un po' come sta andando la mattinata in piazza. Ma ci siamo convocati questa mattina a Piazzale Aldo Moro alle ore 9:30 e ci siamo ritrovati sorprendentemente ancora di più di quanti eravamo ieri. Questo è andato per noi molto importante, soprattutto dopo quello che è successo ieri, alcune dichiarazioni di esponenti politici anche del PD che hanno provato a circoscrivere i fatti di ieri come delle violenze o presunte tali agite da una sparuta minoranza. Bene, questa sparuta minoranza è oggi in piazza, siamo almeno 5.000 tra medi e universitari, stiamo entrando adesso a Torre Argentina dopo aver sfilato in corteo fino a qui. Ora ci stiamo dirigendo verso Montecitorio per ribadire questo dato, cioè il fatto che innanzitutto riteniamo vergognoso che ieri ci siano stati degli arresti nei confronti di studenti che stavano legittimamente manifestando il proprio dissenso nei confronti di una riforma, e dall'altro lato per dire in quella piazza che il DDL va abrogato e che chi si permette di dire che ci sono appunto minoranze violente o frange estremiste lo dice per un motivo molto semplice, perché molto probabilmente è lui che non sta nelle mobilitazioni, è lui che ha perso il contatto con quella che è la composizione sociale dei giovani di questo paese. Sì, tra l'altro forse è utile ricordare che il corteo stamattina si è mosso da una Sapienza in mobilitazione con facoltà occupate già dall'altro ieri e che anche ieri notte sono continuate ad essere occupate, insomma una mobilitazione costante e continua. Sì, stiamo valutando anche insomma contestualmente la grande giornata di oggi cosa fare anche nei prossimi giorni, perché le notizie che ci arrivano anche dalla Camera sono che molto probabilmente il DDL potrebbe, la sua approvazione alla Camera potrebbe slittare ancora di qualche giorno e quindi la cosa si potrebbe rimandare alla prossima settimana. Per questo crediamo che sia necessario anche elaborare delle forme di lotta, delle forme di occupazione che sono delle forme anche innovative e che ci permettano anche di tenere nelle prossime settimane, perché la partita per quanto ieri in qualche modo sia stato fatto saltare un tappo anche di quella che è l'insubordinazione sociale, la voglia anche di riprendere in mano il proprio futuro da parte di una generazione, bene, dobbiamo avere la capacità anche di tenere sul medio periodo e di essere in grado davvero questa volta di vincere. Va bene, allora noi vi ringraziamo, magari ci andiamo a sentire tra un pochino per sapere come prosegue l'iniziativa e vi facciamo in bocca al lupo. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao.